Avere una comprensione profonda, ma non praticare il G-Chod direttamente, è come una spada che ha perso l'efficacia. Non ci si può salvare solo con la teoria. Si è terrorizzati. Lo yogin, la yogini che combinano teoria e azione sono come eroi a cui si danno le armi per sconfiggere i nemici. Che i Bdud siano vinti nella dimensione che va oltre il giudizio, Emaho. Eliminando il proprio giudizio, si pacificano i Bdud. Avere la comprensione profonda che non vi è radice è la vera buddhità. Perciò si stia rilassati in una condizione libera. Si lasci tutto nel proprio stato naturale. I Bdud dei godimenti sono inclusi nella categoria di quelli del giudizio, godimento nella realtà comune, godimento nel supremo risultato spirituale, poiché essi nascono dal proprio giudizio, provando un reale attaccamento verso essi. Essi stessi sono trasformati in Bdud. Il sorgere spontaneo del non attaccamento è detto l'ornamento del Dharmakaya privo di concetti. Poiché il risultato spirituale dei tre Kaya è da cercare in se stessi, non è necessario ricercare il godimento in qualcosa all'esterno. Non esiste un altro nirvana da cercare, oltre l'autoliberazione della trasmigrazione nella propria stessa condizione. Non esiste altra meditazione priva di pensieri discriminanti, oltre il sorgere dei pensieri nelle loro stesse forme. Quindi, essendo tutto parte del giudizio, siccome io dico di eliminare il giudizio e da tutti viene detto di vivere nel puro stato, il pensiero della purezza non può essere identificato.